Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ben ritrovati su Radio 24, ben ritrovati Ivana Di Martino. Ciao, buongiorno a tutti. Allora, nuova puntata casalinga di Personal Best. Insomma, se la scorsa settimana per quanto riguarda la corsa eravamo un po' al palo, come abbiamo detto, no? Fermi. Questa settimana siamo, possiamo dire, anche se mi è concesso, alla sbarra, ma non per un processo, ma perché qui con noi il ginnasta campione olimpico Igor Cassina. Ciao Igor. Ciao a tutti, buongiorno, super buongiorno. Allora, battutaccia forse la mia, ma oggi va un po' così, questa segregazione casalinga, insomma, ci porta a dire queste cose. Tu come stai? Sto molto bene, a parte la situazione che insomma conosciamo e che stiamo vivendo questo momento, io definirei storico, un po' particolare. E oltre alla preoccupazione per tutte quelle persone insomma che stanno soffrendo in maniera particolare, Igor Cassina e la sua famiglia, giustamente rispetto al fatto di stare in casa, e comunque facciamo buona attività fisica, facciamo movimento, divertendoci, mantenendoci in forma e soprattutto rimanendo attivi e lucidi. Bene, allora, la scorsa settimana abbiamo parlato di Olimpiadi con due maratoneti, Valeria Straneo e Job Faniel, e nel frattempo in questi giorni è arrivata l'ufficializzazione delle nuove date per le Olimpiadi di Tokyo, che a questo punto andranno in scena dal 23 luglio all'8 agosto 2021. Tu, Igor, di Olimpiadi ne hai disputate tre: Sydney, Pechino e Atene, dove hai vinto la medaglia d'oro. Cosa pensi di questo spostamento e cosa vuol dire per un atleta spostare in avanti di un anno un evento tanto atteso? L'Olimpiade indubbiamente è un po' il coronamento di un sogno per tutti quei ragazzini che si affacciano allo sport, trovano poi un mito da seguire, da emulare, e quindi avere la possibilità di coronare questo sogno, questo obiettivo, è proprio una vita intera dedicata ad allenamenti, impegni e rinunce. Quindi non è semplice indubbiamente da digerire questa cosa, ma sono anche convinto che la filosofia dello sportivo, il vero sportivo, al di là poi del risultato finale che può conseguire, è quella di mettersi nella miglior condizione di tutela dell'individuo, e quindi gli atleti, è comprensibile il loro rammarico del fatto che magari si stavano preparando, erano in forma, arrivavano magari da un quadriennio dove avevano già avuto risultati, quindi proiettati a realizzarsi, però si fa molta fede su questo valore, che è quello del rispetto di noi tutti, e quindi è tutto posticipato più in là. Significa che, come spesso uno dei miei motti che metto in pratica, che innanzitutto la fatica di oggi è il risultato di domani, e questa è una buona fatica, soprattutto mentale, da dover digerire, e che da ogni situazione apparentemente negativa c'è sempre la parte buona, e così sarà. Infatti in questo periodo, no, dobbiamo sfruttare questa cosa per diventare molto più resilienti, no? Quindi molto più forti mentalmente, e anche il fatto di allenarsi un po' a casa, un po' cercando di trovare qualche scamotage, ci permette poi di diventare molto più forti dopo. Questo ci permette, cosa ne pensi? Sono estremamente d'accordo. Sono d'accordo, perché la resilienza è un concetto di vita che bisogna adottare nonostante tutto, nonostante le circostanze, e questa è una circostanza di vita che dobbiamo vivere pensando già al futuro. Quindi va bene analizzare la situazione, è giustissimo da fare, e la famosa resilienza ci deve essere di aiuto, e parte da noi, dal fatto che dobbiamo comprendere molto bene che il fatto di allenarci costantemente tutti i giorni, al di là poi per un atleta che va alle Olimpiadi, ma per tutti, ci metterà in una miglior condizione di benessere quando ritornerà un pochino tutto più sugli standard. Dico, invece, per qualcuno potrebbe essere un'opportunità, no? Fare due Olimpiadi in tre anni. Guardiamo il lato positivo, insomma. Sì, ecco, mi hai dato un bell'assist, perché vedi, da ogni situazione apparentemente negativa c'è sempre il lato buono, quindi dobbiamo essere noi molto, molto bravi a cogliere le opportunità. Perché sappiamo, no, è dagli anni che furono, crisi uguale opportunità, e c'è poco da fare. Questo sicuramente per tanti versi è un momento di crisi che sta mettendo anche in ginocchio tante realtà nel mercato, però sappiamo anche che questa crisi equivale a un'opportunità che noi possiamo cogliere, quindi possiamo scegliere e decidere di rimanere a casa fermi seduti a sperare, oppure possiamo metterci in gioco e far fronte a tutte le nostre capacità, al nostro know-how, alle nostre abilità, facendoci anche aiutare per programmare un nuovo inserimento in un nuovo progetto da qui a quando tutto si riaprirà, e portarci già avanti magari in un nostro già progetto esistente come lo è per la maggior parte delle persone. Farsi trovare pronti a queste situazioni, anticipare quello che saranno poi scelte future. Tu hai vinto l'oro olimpico ad Atene, quindi un'Olimpiade in cui ha vinto anche Stefano Baldini, nella maratona ovviamente. E per questo tu sei diventato maratoneta per questo o comunque hai iniziato più tardi? Stefano Baldini, un atleta che ho sempre un po' stimato, no? Ancora prima che vincesse le Olimpiadi. Diciamo che un po' la passione, il fascino sulla corsa e sulla maratona è nata grazie a mia sorella Mara, che è podista insieme al fidanzato Max da diversi anni. E un po' di anni fa mi hanno lanciato una sfida, ancora prima del mio trasferimento da Meda in Brianza su Treviso nel Veneto, dove mia sorella mi disse: Igor, sei stato sì un buon atleta, ma non pensar mica di metterti a correre e fare una maratona. Tu non hai mai corso e quindi per te è impensabile, ok? E io ho detto, vabbè, lì per lì non ci ho dato peso più di tanto. Poi però per 2-3 notti non ho dormito così bene, perché mi ha un po' punzecchiato questa cosa. Allora, l'agonismo viene fuori. Perché ti ha lanciato una sfida. Allora ho iniziato a correre e ho cercato di fare un po' come Forrest Gump, ma poi ho dovuto cercare anche di capire che valeva la pena avere un po' un metodo di lavoro e una programmazione anche lì. E quindi ho fatto la mia prima maratona nel 2017 a Treviso. Ah, okay. Perché ho scelto Treviso? Il buon Roberto Girotto. Perché mi sono trasferito a Treviso, allora ho detto la faccio nella città dove sono andato a vivere. Mm-hmm. E poi ho fatto la maratona ad Atene a novembre, il 10 novembre ad Atene, dove è venuto anche Stefano Baldini dopo una mia successione di chiamate tipo Stefano devi venire, Stefano devi venire, e ha partecipato. Dopo 15 anni sei tornato ad Atene. L'anniversario, sì. L'anniversario. Com'è andata? Allora, è andata molto bene, ovviamente il molto bene è da prendere con le pinze per il mio grado di preparazione soprattutto dal mondo in cui arrivo, che non c'entra niente con uno sport di resistenza come la maratona e soprattutto con gli atti inferiori. Il mio obiettivo era fare un pochino meglio rispetto a Treviso. A Treviso avevo fatto 3:59 e quindi io volevo semplicemente fare un po' meglio. Ho fatto 3 ore 57 minuti e 55 secondi e vi posso garantire che non ho mai fatto così tanta fatica, soprattutto mentale, in vita mia. Parto dal presupposto che quando ho iniziato a prepararmi tutte le volte, cioè tutte le volte 3-4 volte alla settimana per 4 mesi, questo è stato il mio tempo di preparazione, tutte le volte che uscivo, senza far pubblicità, però guardavo il Garmin per vedere come stavo andando e guardavo, dicevo 3 km, 4, 5 e già iniziavo a percepire molta fatica, soprattutto mentale. E ho detto, ma come faccio ad arrivare qua a 42? Quando poi ho iniziato a fare i lunghi, ho detto, mai più, forse l'ultima cosa che faccio, ma poi mai più. Poi ci sono ricascato, perché poi sono ritornato a fare quella di Atene, e essendo un tracciato, quello di Atene, molto che difficile. Conosci molto bene, molto meglio di me, che ha un dislivello di circa 300 metri per... Infatti, sei goduto la salita. Mamma mia, è stata... Allora, se non fosse stato per due miei cari amici... Che ringrazio in maniera molto calorosa, che sono Aurelio e Simone insieme a Luca, che sono stati fondamentalmente lì con me, attaccati sempre. Ho avuto due momenti dove ho detto, ragazzi, io arrivo al traguardo, ma adesso mi fermo un attimo. E loro mi hanno detto, Igor, sì, ma non fermarti. Ma erano proprio seri, quasi mi hanno fatto sentire un po' a disagio perché mi volevo fermare. E poi ho pensato a Riccardo, che insomma è il figlio che abbiamo insieme a Valentina, che spesso, non tutti i giorni, ma spesso gli faccio discorsi tipo, Riccardo, ricordati che nella vita ti devi impegnare, devi fare un po' di fatica per diventare più forte. E gli ho detto, ma con che coraggio torno a casa? Adesso torno. Sono fermato. Allora ho cercato di trovare un buon motivo per andare avanti. Quindi è stato più una fatica mentale che fisica, Igor? Assolutamente, sì. Perché nel mio sport ho faticato tanto, ma il mio è uno sport forza di concentrazione. Sì, anaerobico, dove salgo sull'attrezzo 10-15 secondi, poi scendo, aspetto un attimo, risalgo. Infatti. E quindi una gestione dello sforzo fisico totalmente diverso. E poi tutto si concentra in pochi secondi, invece la maratona, insomma, 4 ore, poco meno di 4 ore. Sì, per i professionisti corrono da 2 ore a 2 ore e 30, ok, però per il Cassina sono più o meno 3 ore e 50, 4 ore, quindi cambia. Quindi sono più forte io perché corro per più ore rispetto a loro. Ah, beh, sicuramente, questo lo diciamo spesso. Ma hai continuato a correre fino a qualche settimana fa? Assolutissimamente no. Perché dopo la maratona di Atene ho detto, adesso qui ho bisogno di, altro che la quarantena, ho bisogno di un lungo periodo per rigenerarmi. Quindi non hai messo in programma già qualche altra gara? Guarda, allora, quando ho iniziato a percepire una seria fatica, ho detto, Igor, cioè, ma neanche se ti dovessero firmare un contratto multimilionario farò mai più un'altra maratona, ok? Poi sai, dopo concludi il traguardo, comunque sei soddisfatto, perché quando poi fai una buona fatica e ti realizzi sei felice. Non ho messo in programma niente, ma mi conosco un po', e può essere che magari a momento debito ci sarà una situazione particolare dove magari mi faccio coinvolgere o mi voglio coinvolgere io in autonomia. Ecco, vi aggiornerò. Igor, qui veniamo un po' al dunque, perché un ginnasta, insomma, oro olimpico d'Atene e quindi non un'Olimpiade a caso, insomma, avrai qualche consiglio su cosa fare a casa in questa settimana di mobilismo, a parte le lasagne e la pizza, insomma, tu che esercizi fai? Allora, per tutti quelli che volessero allenarsi con me, comodamente ovviamente da casa, online, gratuitamente, basta applicare scaricare un'applicazione gratuita, poi attraverso i social, insomma, venite a contatto con me facilmente e potete fare attività fisica mezz'oretta comodamente da casa, e faccio fare esercizi sia per la parte inferiore, sia per le braccia, che un po' di addominali. Quindi ovviamente è un'attività fisica, diciamo, a basso sforzo fisico, non è intensa, è giusto per condividere un momento tutti assieme. E per chi già fa sport, comunque tenersi allenato. Per chi magari può essere una scusa, un buon pretesto per iniziare anche a muoversi, così è alla portata di tutti. Ma lo posso fare anch'io, secondo te, Igor? Che sono veramente... Cioè, io non ho assolutamente nessun tipo di agilità nel fare esercizi. Io corro, faccio sì con stability, stretching, ma per il resto sono negata. Quindi posso provarci. Ma certo, tu sei fortissima. E quindi nel fare gli esercizi riuscirai a farli anche meglio di me. Ecco. La vedo grigia. Comunque lo faccio, mi collego, promesso. Igor, quanto è importante in un momento come questo avere una passione? Ma allora, la passione... Che non sia l'equitazione, insomma, che ci porti fuori casa. Certo. Guarda, hai toccato un punto che mi rende felice di vivere solo perché penso alla passione. E credo, e sono assolutissimamente convinto, che tutte le persone, indistintamente dall'età, dovremmo, ma noi siamo positivi, abbiamo una passione. Perché la passione semplicemente ci guida. Avere una passione ci è di aiuto, è un po' una nostra ancora di salvezza. Quelle volte, perché sarei ipocrita a dire che non ho mai dei momenti dove sono un po' preso magari da sconforto o penso magari di poter non riuscire a fare una cosa, sono un essere umano e ben venga che viviamo di emozioni, ma quello poi che è la nostra forza è la nostra passione, qualsiasi essa sia, perché la passione ci aiuta soprattutto quando le cose non vanno come vorremmo. Facile essere guidati dalla passione quando tutto ti va bene, tutti sono capaci, ma la forza è la forza che abbiamo noi. Per questo che abbiamo un grande potenziale, perché siamo noi che possiamo comunque far guidare i nostri pensieri, che stimolano poi delle emozioni, e la passione ci aiuta a far questo. È semplice? No, non è semplice, non sto dicendo questo. Per tante persone è anche difficile a volte farsi ispirare e farsi guidare per individuare e conoscere meglio se stessi e avere una passione. Quello che io posso solo dire di fare è anche un po' buttarsi in cose nuove. Non ho mai fatto magari sport o attività fisica, problemi zero. Provo a fare qualcosa, ascolto un po' il mio corpo e soprattutto la mia testa, cosa mi sta dicendo quando faccio quegli esercizi. Sto insieme a un gruppo, una community, a delle persone che sono lì fondamentalmente per divertirsi tutti assieme, e questo ci può essere di aiuto step by step nel capire meglio effettivamente cosa ci appassiona sempre, sto parlando a livello etico, morale, di integrità, per essere delle persone migliori. Igor, se non avessi fatto il ginnasta, cos'è che così, insomma, avresti potuto fare? Se non avessi fatto il ginnasta, avrei sicuramente fatto il ginnasta. Allora adesso, a parte una battuta, ti chiedo scusa, Ivana. No, figurati, però sono curiosa di questa cosa. Guarda, ogni tanto me lo sono domandato. E allora, io ho smesso di far ginnastica artistica all'età di 33 anni. Adesso ne ho qualcuno in più e non posso svelarveli così, perché non si può, Adesso ne ho 42, tra l'altro quest'anno il 15 agosto ne faccio 43, quindi nonostante ho smesso da 10 anni, ho vissuto in maniera così intensa questo sport che non c'è giorno dove io o non penso alla ginnastica o non guardo dei video. Questo semplicemente per dirti che ce l'ho talmente dentro che seriamente io faccio fatica a pensare a cosa avrei potuto fare se non fosse stato iniziare ginnastica. Di certo, essendo un maratoneta, di certo avrei fatto del mio meglio per eccellere in un altro sport, perché non riesco proprio a non vedermi nell'utilizzare il mio corpo, la mia concentrazione per fare un po' meglio ogni giorno, per andare, come sappiamo noi, Ivana, da buoni sportivi, atleti, un po' oltre il limite, no? E quindi a me piace tutto lo sport. Ma veramente, collegandomi alla maratona, uno dei temi che abbiamo toccato oggi, ricordo come fosse ieri, insieme a mio papà Carlo, che è la mia fonte di ispirazione, insieme a mia mamma, alla mia famiglia, insieme a Mara, a mia sorella, quando ero seduto sul divano di casa alle Olimpiadi del 1988 Seul, quando Gelindo Bordin vinse la maratona. E io sono sempre stato attratto e coinvolto, grazie a mio papà, nel seguire tutto lo sport, ancora magari dallo sci, ancora prima, quando c'era Richard Pramotton, magari non tutti se lo sì, ve lo ricordo. Negli anni 80, io sono nato nel 1977 e a 6-7 anni ho iniziato a guardare lo sport in televisione, il ciclismo. Mio papà voleva che io facessi il ciclista. Ecco. Avevo la bicicletta pronta della Sironi Tanzi, club dove ha militato Gianluca Bortolani, che ha vinto anche una Coppa del Mondo, quindi un professionista. Però io sono stato attratto poi da mia sorella, che già faceva questo sport, e ho detto vado in palestra. E quindi però è andata bene, insomma. Sarei stato uno sportivo di un altro sport, non so quale. Non sai quale. Però è andata bene, insomma, l'oro olimpico, un argento mondiale, poi svariate altre cose, e poi lasciato in eredità un movimento, insomma, il movimento Cassina. Più di così, insomma. È vero, quello è stato, diciamo, un traguardo, si può dire, che è avvenuto prima delle Olimpiadi. E se la mia carriera fosse anche finita dopo aver conseguito quel riconoscimento importante, mi sarei ritenuto comunque già soddisfatto in qualche modo appagato. Però è ovvio che il Movimento Cassina ha permesso poi la realizzazione di un sogno. Non fosse stato per quel movimento, ad Atene non avrei potuto vincere. Quindi è stato quello che ha fatto la differenza rispetto agli esercizi degli altri atleti. Adesso chi lo esegue ti deve pagare i diritti? Allora, oggigiorno sto portando avanti un progetto che genera royalties, ma ahimè col Movimento Cassina royalties ci sarà poco. Diciamo che ho toccato un punto, quello delle royalties e comunque del denaro, che è importante per vivere sicuramente, perché ci genera serenità, libertà, però vi posso garantire che al di là che il mio non è uno sport remunerativo che ti mette in una condizione di dire ok, finito di avere il mio percorso da atleta, da professionista, tra virgolette, sono a posto per modo di dire per tutta la vita, perché ho messo da parte X. Nonostante quello, io vi posso garantire che quel tipo di soddisfazione che ho provato e che ho vissuto va ben oltre qualsiasi tipo di contratto che anche avrei potuto avere senza conseguire quei risultati. Quindi proprio a livello umano, ogni volta che riguardo le immagini, non perché io vado a cliccare Igor Cassina per guardarmi, però magari quando vado nelle scuole, quando faccio magari degli speech motivazionali, quando ci sono delle situazioni che mi ricercano, viene proiettata l'immagine. E veramente ogni volta che la vedo vado a ripercorrere in quei pochi secondi quello che ho vissuto insieme ai miei genitori, alla mia famiglia. E pensate che sul gradino più alto del podio la prima cosa che ho pensato è stato chissà cosa stanno pensando loro, perché erano lì i miei genitori e mia sorella. Per me è sembrato tutto un po' così strano. Complimenti davvero.